Le nuove Eve e i nuovi Adami. Il coraggio di contestare, la volontà di scegliere, il potere di amare. Siamo tutti affamati di storie. Le storie danno forma ai nostri desideri, forgiano i nostri sentimenti e definiscono i nostri obiettivi, modellando la nostra visione in generale, del corpo come di quanto è sacro o profano, del bene e del male, del possibile e dell'impossibile. Sono le teorie che ci offrono personaggi da emulare, imitare, ammirare o aborrire. Ed è sulle storie che ci vengono raccontate che a nostra volta inconsciamente modelliamo il copione della nostra vita. Per la maggior parte, noi e prima di noi i nostri genitori non ce ne rendiamo conto. Pertanto di solito raccontiamo ai nostri figli le stesse storie che ci hanno raccontato o le storie che più facilmente si trovano in libri e riviste, al cinema e alla televisione. Questo fecero con me i miei genitori e questo a mia volta ho fatto con i miei figli. Sicché ora noi tutti ci troviamo di fronte al compito di riesaminare e rimodellare le storie e le immagini che ingombrano la nostra immaginazione. Il compito di renderci conto dei fili conduttori delle storie che ci portiamo dentro e di trovare o creare storie e immagini capaci di allargare invece che di restringere i nostri orizzonti. Ciò spiega il grande interesse odierno per i miti antichissimi e per quelli nuovissimi. Non si tratta soltanto, come si afferma talvolta, di una moda New Age. Nasce invece dal riconoscimento che molti dei nostri miti sono non soltanto inadatti al nostro mondo in rapido cambiamento, ma anche fuorvianti sulle umane possibilità. Fatto ancora più importante, nasce dalla crescente consapevolezza che il modo in cui immaginiamo la linea di condotta personale e sociale può influenzare profondamente le nostre e le altrui vite. Non si intende ovviamente dire che basterà cambiare le nostre storie e le nostre immagini, ma anche lo sguardo più superficiale alla storia moderna consente di vedere che soltanto grazie a un gruppuscolo di donne e uomini temerari che osarono immaginare relazioni politiche, economiche e sessuali diverse, siamo gradualmente riusciti a cambiare molte realtà dolorose e inumane. Come abbiamo visto, su ciò fondamentalmente si incentra la moderna rivoluzione delle coscienze, la decostruzione e la ricostruzione graduale delle storie e delle immagini, che per tanto tempo sono servite a forgiare elementi, corpi e le anime affinché si adattassero alle esigenze di un sistema retto dal castigo, dalla paura e dal dolore. Come pure abbiamo visto, questa rivoluzione delle coscienze sta passando a una seconda fase, animata dal risveglio della consapevolezza che davvero abbiamo delle scelte, che possiamo effettuare dei cambiamenti, e questi cambiamenti sono fondamentali in un'era di alta tecnologia nucleare minacciata da disastri ecologici. Non ci sono garanzie che riusciremo a liberarci dai miti e dalle strutture che ancora ci legano a modi di vivere e di morire che sono disfunzionali, dolorosi e ingiusti. Ma il tentativo è in sé un'avventura straordinaria, un viaggio nel contempo interiore e all'esterno, che ci porta verso livelli ancora più profondi di consapevolezza e su traiettorie di vita ancora più ampie e appaganti. Perché paradossalmente, più integrati siamo alla lotta per modellare il nostro copione di vita, più ci apriamo a ulteriori cambiamenti della coscienza e più osiamo tentare strade nuove, come tutti gli esploratori di nuovi territori. E più ci apriamo ad altre strade ancora che ci danno la possibilità di vivere la vita in modi che mai abbiamo pensato possibili. Se scrivo con tanta convinzione è perché negli ultimi 30 anni è radicalmente mutata la mia consapevolezza e insieme la mia vita. Il processo non è stato certo indolore, è sempre così quando non cerchiamo più di stupidirci con tutti i mezzi sviluppati nelle società della dominanza, affinché si attraversi la vita, svegli e consapevoli soltanto a metà di attutire il dolore che ci portiamo dal nostro passato o di essere ciechi di fronte a quello altrui. Ci sono stati momenti di estremo dolore in cui mi sono chiesta se valeva la pena lottare, ma inequivocabilmente posso affermare che ne è valsa la pena perché mi ha aperto la mente, il cuore e nel senso di ciò che in tutti noi è più evoluto, l'animo. Soprattutto mi ha aperto le enormi possibilità dell'amore, compresa un'accettazione più amorevole di me stessa. E in questo non sono affatto sola, visto che la ricerca di vie nuove e diverse si sta diffondendo in tutto il mondo. È ancora in ampia misura una ricerca da viaggiatori solitari, che lentamente cominciano a unirsi per scoprire di far parte di una nuova comunità in formazione. Per certo non è ancora una ricerca di cui si parla in tante storie di violenza, di sesso spersonalizzato, di alienazione, brutalità e cinismo, che come hanno dimostrato George Gerbener e altri, conserva gli esistenti squilibri di potere. Eppure, se perseveremo, alcune delle storie di quelli che oggi hanno il coraggio di contestare, la volontà di scegliere, la determinazione per reclamare per noi stessi e per i nostri figli il potere umano assolutamente unico di dare e ricevere amore, saranno alla base di nuovi miti. Miti su nuove Eve e nuovi Adami che, superando tanti ostacoli, hanno preparato il terreno a strutture sociali che incoraggiano, invece di intralciarla, la grande capacità di trarre piacere dai vincoli d'affetto, che grazie all'evoluzione ci è stato dato. La nostra avventura creativa. Fin dalla comparsa della nostra specie, alcuni dei più importanti cambiamenti avvenuti sul nostro pianeta sono stati creazioni umane. Per verificarlo basta guardare attorno a noi. Non soltanto le città e i paesi in cui viviamo, le automobili e gli aeroplani in cui viaggiamo, le sedie su cui sediamo, i tavoli su cui scriviamo, le pietanze che cuciniamo e i piatti su cui le serviamo, ma i governi, le religioni, le scuole, gli affari, le leggi e ovviamente i miti, i simboli e le immagini. Sono tutte creazioni umane e in quanto tali possono essere reinventate, come è accaduto nel corso della storia umana, in luoghi e tempi diversi. Questo è il motivo per cui sentiamo tanto parlare oggigiorno di reinventare quasi tutto per affrontare le sfide dei tempi nostri. Le corporazioni, il governo, le scuole e anche la spiritualità e la sessualità. Ma per reinventare i valori e le istituzioni fondamentali dobbiamo anche reinventare la creatività. La visione tuttora prevalente della creatività è in sé un pollone di un'organizzazione sociale e ideologica della dominanza. Per cominciare, definisce la creatività come qualcosa di separato e al di sopra della gente e della vita normali, qualcosa che solamente un genio raro possiede ed esercita in uno splendido isolamento per creare i prodotti che possono essere guardati in speciali occasioni nei musei e in altri spazi rarefatti, o usati per rivoluzionare le tecnologie della produzione o della distruzione. Non si fa nessuna distinzione fra inventiva che arricchisce le scelte esistenziali e migliora la qualità della vita e inventiva che limita le scelte esistenziali e arriva persino a prendersi la vita con maggiore efficienza. Né si rivolge la minima attenzione al contesto sociale della creatività, a quella che David Loy chiama la matrice femminile di accudimento della creatività nei sistemi sociali o alla creatività collaborativa, e tantomeno la creatività quotidiana necessaria per mantenere i rapporti o crescere i bambini, cioè lavoro femminile secondo lo stereotipo. Una definizione così limitata e limitante della creatività ha senso per una società in cui gli uomini sono gerarchicamente al di sopra delle donne e un'elite di uomini sta sopra a chiunque altro. Ma non ha senso per una società più orientata sulla partnership, il che spiega come mai vediamo oggi il graduale emergere di una visione diversa della creatività, non soltanto tra ricercatori, artisti e dirigenti che istituiscono workshop propedeutici sulla creatività nelle loro società, ma tra migliaia di donne e uomini comuni. Questo modo nuovo di considerare la creatività riconosce che tutti gli esseri umani ne sono dotati. E che mentre questa capacità, come quella di alzarsi, di camminare e così via, varia da persona a persona, può essere sviluppata, ovvero bloccata. Riconosce anche, come scrive Alfonso Montuori, che la creatività si esprime in mille campi, non soltanto nello studio di un artista o nel laboratorio di uno scienziato. Cambia pertanto la classificazione di ciò che è o non è un prodotto creativo, come molta arte contemporanea ha pure cominciato a fare, riconoscendo che in effetti è la normale creatività, quella che si investe nella vita quotidiana, che è spesso la più straordinaria, in quanto, come scrive Elizabeth Dawson Gray, può dare molto più significato e persino sacralità alla nostra vita. Inoltre, non usa più indiscriminatamente il termine creatività per qualunque tipo di inventiva, compresa quella coatta a dominare e a uccidere meglio. Piuttosto, riserva il termine creatività per quegli usi dell'inventiva in linea con i cicli creativi e non con quelli distruttivi della natura. Ma forse la cosa più importante in questa nuova visione della creatività è che si concentra ampiamente sul suo contesto sociale, su ciò che ci stimola o ci trattiene nel nostro essere creativi, e al di là di tutto questo, su quella che viene chiamata oggi creatività sociale, la creazione di istituzioni sociali, di sistemi di credenze e di miti. In altri termini, riconosce e quindi apre allo studio e all'azione il fatto che fin dall'inizio della nostra avventura umana, qui sulla Terra, noi esseri umani siamo stati co-creatori della nostra evoluzione sociale. In termini di misurazione del tempo, altra invenzione umana, solamente da circa 250.000 anni è iniziata questa avventura con il passaggio dall'ominide all'essere umano. Sono passati 25.000 anni da quando i nostri antenati del Paleolitico hanno prodotto le prime grandi opere d'arte occidentali, opere in cui erano temi importanti le coppie di animali e la sessualità umana. E sono trascorsi circa 2.500 anni da quando i miti religiosi del matrimonio sacro della dea e del suo divino amante e immagini sacre del potere creativo femminile sono svanite dalla coscienza culturale dell'Occidente. Oggi le nostre immagini sacre, i nostri miti, tendono a concentrarsi di più sulla morte, il castigo e il dolore che sul sesso, la nascita e il piacere. Non celebriamo più il ritorno della vita a primavera, né abbiamo immagini della vulva e del fallo proposti come sacri. Nella nostra mitologia religiosa non abbiamo più storie in cui i movimenti ciclici della natura, dall'oscurità alla luce, dal freddo al caldo e in particolare dall'incolto al fertile, sono connessi con i cicli umani della vita e della morte. Storie in cui la terra, da cui ogni anno nasce la vita, è raffigurata come una grande madre, al cui grembo la vita ritorna, come nei cicli della vegetazione, per poi rinascere. Ma negli ultimi 20 anni, diventando più consapevole delle più antiche immagini e dei più antichi miti dell'Occidente, spesso mi sono sorpresa nel vedere, in quanto di ciò che sta oggi emergendo, reminiscenze di radici culturali antiche più orientate sulla partnership. Da questa più ampia prospettiva, la nuova spiritualità, che non pone più l'uomo e la spiritualità al di sopra della donna e della natura, non sembra poi così nuova. E come abbiamo visto, la coscienza è emergente del legame tra sessualità umana e spiritualità precedenti antichissimi. È sorprendente anche il fatto che la visione dei nostri antenati, della nostra madre terra, come insieme vivente, pulsante, miracolosamente interconnesso, stia ora riemergendo, non solo nella coscienza generale, ma in teorie scientifiche come l'ipotesi di Gaia, dove Gaia è il nome greco della dea creatrice. Sicuramente gli autoadesivi che proclamano ama tua madre e onora la madre terra acquistano un significato molto più potente e specifico nel più ampio contesto di un precedente sistema di credenze in cui il mondo era visto come una madre divina. Esistono persino somiglianze tra alcuni nuovi poster ambientalisti e antiche immagini artistiche, tra il bellissimo affresco di un delfino minoico Cnosso e le molte immagini di delfini che vediamo oggi. In breve, che sia in quella che chiameremo la coscienza ecologica dei nostri antenati, ovvero nella loro spiritualità più incentrata sulla natura e il corpo, nella preistoria dell'Occidente molto pare prefigurare la visione di un mondo più orientato sulla partnership, che oggi lotta per emergere. Ma proprio come le antiche immagini del corpo della donna, considerato sacro, non nascono nel vuoto, le nuove credenze, immagini e storie più consone a un'organizzazione sul modello della partnership che della dominanza, che cominciano ora a penetrare nella nostra coscienza, stanno emergendo in superficie soltanto per via dei cambiamenti personali, culturali, sociali ed economici che abbiamo preso in esame. Il problema, tuttavia, è che se almeno in alcune regioni del mondo gli ultimi 3 secoli hanno apportato cambiamenti fondamentali nei modi di rapportarsi tra gli individui, sia nella sfera del pubblico sia in quella del privato, i miti e le immagini che troviamo principalmente nella nostra cultura sono ancora in amplissima misura un riflesso delle relazioni della dominanza. In parte si deve a un ritardo temporale, perché spesso ci vuole parecchio tempo prima che idee e scoperte nuove vengano incorporate in quanto accettato come conoscenza e verità. Ma in gran parte si deve al fatto che le vecchie storie e le vecchie immagini del dominante hanno tanta presa sulla nostra immaginazione, e in particolare sull'immaginazione dei nostri guardiani culturali, l'establishment accademico, religioso, economico e responsabile dell'istruzione, in particolare gli editori di libri, riviste, giornali e i produttori di telegiornali e giornali radio, programmi di intrattenimento e film. Il risultato è che per la maggior parte le storie e le immagini della cultura dominante tuttora si incentrano pesantemente su quel che fa andare avanti un'organizzazione sociale sul modello della dominanza, la sofferenza o la minaccia di dolore fisico. Purtroppo ciò è vero anche per gran parte dell'iconografia sacra, che come abbiamo visto viene da tempi molto più autoritari e dominanti, e dominati dal maschio. Tempi in cui la violenza era considerata un vero e proprio dettato divino. Di conseguenza non sorprende, anche se guardando bene è sconvolgente, la rarità di immagini religiose che esprimono l'amore nei rapporti intimi. Non possediamo immagini sacre dell'amore o del piacere sessuali, in quanto, come abbiamo visto, solamente il sesso per la procreazione era perdonato dai padri della Chiesa, e comunque anche in tal caso obtorto collo. Al contrario, invece di concentrarsi sul piacere, moltissime immagini religiose cristiane si concentrano sul dolore e la crudeltà, l'idealizzazione e la vera e propria sacralizzazione della sofferenza, come nell'infinito numero di immagini di martiri del martirio di Cristo sulla croce. Anche l'iconografia religiosa, sulle relazioni tra genitori e figli e tra fratelli, si concentra più sulla violenza, come nella famosa storia di Caino e Abele. O l'automatica obbedienza a un'autorità paterna onnipotente, come la morte obbediente di Gesù e la volontà di Abramo, spesso ripresa di sacrificare il figlio Isacco a Dio. Inoltre, come scoprì osservando meglio le tante icone e tanti dipinti che raffiguravano la Madonna con il bambino Gesù, dal Medioevo ai tempi nostri, in numero sorprendente non esprimono nessuna tenerezza tra madre e figlio. Pertanto, una delle grandi sfide creative dei tempi nostri e critiche, se vogliamo continuare la nostra avventura umana, in un'epoca in cui i vecchi caratteri della dominazione e della conquista sono sempre più disfunzionali e potenzialmente suicidi, è quella di creare per noi stessi e per i nostri figli immagini e storie del sacro più congrue a un'organizzazione sociale sul modello della partnership. Immagini e storie in cui il dare e il ricevere piacere e premure, invece che il provocare dolore o il sottomettere a esso, occupino il centro del palcoscenico. È un'impresa immensa, contro cui fortissima è la resistenza, non solo opposta da forze esterne, ma dall'intimo di noi tutti. Eppure, nonostante tutto, è esattamente quanto alcuni coraggiosi teologi, sacerdoti, monache, rabbini e di particolare importanza donne e uomini comuni in tutto il mondo già hanno cominciato a fare. Rimitizzazione del sacro. Non è la prima epoca della storia in cui miti religiosi serviti a mantenere ingiustizia e sofferenza vengono contestati. The Women's Bible, scritto nel XIX secolo da Elizabeth Cady Stanton, per esempio, è un commento sarcastico e mordace ai numerosi passi biblici che presentano la donna come un essere infame, subordinato e o incoerente e irragionevole. Ma se alcuni di questi primi tentativi di occuparsi di miti religiosi che ci vincolano a un modo di vita della dominanza richiedono alternative che, come scriveva Stanton nel 1898, impartiscano lezioni più impressionanti ed elevate dei libri sacri di tutte le religioni della Terra, nella prima fase della moderna rivoluzione delle coscienze prevalsero le critiche ai miti esistenti, ovvero in altri termini fu accentuata la decostruzione. Solamente ora, nel passaggio alla prima fase di questa rivoluzione delle coscienze, l'accento si va spostando sulla ricostruzione. Come abbiamo pure visto, donne e uomini comuni vanno reinventando rituali per celebrare il parto e cerimonie per il menarca, importante rito di passaggio per le ragazze. Così altrettanto importante stanno cominciando a risacralizzare la nostra esistenza quotidiana, reinvestendo gli atti di ogni giorno. Dalla preparazione del cibo alla cura della casa e soprattutto di noi stessi e degli altri, di molto maggior senso a pagamento. Gli individui reinventano il sacramento del matrimonio, scrivendo i loro personali voti solenni, usando persino reciproche promesse d'amore invece delle parole di un funzionario religioso, per proclamare il loro sacro vincolo. Fatto importantissimo, stanno risacralizzando l'erotico, comprendente il sesso più tenero e il più appassionato, riportando ciò che nelle religioni della dominanza era legato al misticismo, là dove sta di diritto, ovvero nella nostra esistenza quotidiana. Come scrive il teologo Carter Hayward, quando arriviamo a esperire l'erotico come sacro, cominciamo a conoscerci come creature sacre e a immaginare di prendere parte alla creazione l'uno dell'altro e del nostro benessere comune. Quando riconosciamo il volto del santo nel volto di amanti, amici e nel nostro stesso volto, allora cominciamo a sentirci a nostro agio con il nostro io corpo, sensuale, unito e potenziato. Diventiamo l'un per l'altro risorse di una saggezza e di un piacere in cui fino a quel punto non avevamo osato credere. Cominciamo a comprendere che la divinità si muove tra di noi, trascendendo le nostre particolarità. È nata e incarnata fra noi. È terra immagine, potere persona, spirito creativo, radice della nostra esistenza in generale e dei nostri più intensi desideri personali. Come il vento soffia attraverso l'oceano, stimolando le creature del mare, facendole ruzzolare, precipitare e riassettandole, così l'erotico passa tra noi, spingendoci a cambiare i modi in cui viviamo in relazione. Toccati da questo sacro potere, non saremo mai di nuovo gli stessi di prima. Credo che questa risacralizzazione dei nostri corpi e dei nostri rapporti intimi sia uno dei mattoni più importanti per la costruzione di una nuova spiritualità della partnership nel contempo immanente e trascendente, una spiritualità rivoluzionaria in cui si è idealizzato il piacere sacro e non il dolore che redime. Credo anche che la creazione di una mitologia che sacralizza l'erotico e ci infonde il desiderio di trasformare noi stessi e le nostre società porterà con sé nuovi miti, compresi i miti di una sacra famiglia, adatti a un mondo giusto e democratico. E anche questo, sebbene vada contro molte norme ereditate dalle antiche società della dominanza, si va pian piano facendo. Basta in proposito ricordare l'opera di teologi, artisti, romanzieri, tesa a reinvestire della divinità la madre cristiana di Dio. Questa rivendicazione della divinità di Maria è particolarmente importante, in quanto ovviamente dobbiamo lasciarci alle spalle l'idealizzazione di una famiglia in cui soltanto il padre e il figlio e non la madre sono divini. In effetti, dobbiamo anche aggiungere al pantheon di una sacra famiglia una figlia divina, perché allora soltanto avremo un modello di famiglia in cui tutti i membri sono parimenti apprezzati e rispettati. Tutti i nostri miti religiosi e laici di violenza eroica simboleggiano semplicemente la lotta cosmica tra le forze del bene e del male. Tra il Dio e il diavolo, tra la luce e le tenebre, e come amano dirgli gli junghiani, tra l'uomo e la sua ombra. Insomma, questi miti riflettono la realtà umana. Tuttavia, c'è un altro modo di guidare la realtà del male, un modo di gran lunga più sottile di considerare il male, è come assenza di quelle qualità che ci rendono essere assolutamente unici, la nostra enorme capacità di consapevolezza, scelte e soprattutto empatia e amore. Questa intuizione dell'amore come essenza della nostra umanità e di quanto diciamo divino è in effetti l'insegnamento centrale di grandi figure spirituali. Questo insegnamento d'amore nel contesto di una società della dominanza è stato distorto, rarefatto, spesso pervertito per giustificare gli atti più barbari e odiosi. Ecco perché una delle più importanti sfide creative dei tempi moderni consiste nello sgombrare l'amore da tutti i significati crudeli che ha acquisito negli ultimi millenni di storia del dominante. E la cosa eccitante è che anche questo sta avvenendo. Riapprendere l'amore. Diciamo di amare i nostri genitori, i nostri figli, i nostri compagni, i nostri amici. Diciamo di amare Mozart, le rose, il tramonto, e danzare, correre, cantare, cucinare, fare giardinaggio, e anche di amare la cioccolata o la lettura di un libro stimolante. Così amore è una parola a tuttofare, passepartout, che serve in tutti i casi in cui qualcosa ci fa sentire bene, e in particolare ci fa sentire connessi fisicamente e spiritualmente con i nostri simili. Per la verità, come abbiamo visto, mediante sostanze chimiche come le endorfine e altri neuropeptidi che soltanto di recente gli scienziati hanno cominciato a studiare, nel corso dell'evoluzione la natura fornì alla nostra specie un'enorme capacità di piacere, tratto specialmente dal sesso e dalle premure, date e ricevute. La cosa ha senso in quanto noi esseri umani non possiamo sopravvivere senza una certa misura almeno di connessione. In effetti, come gli scienziati stanno pure dimostrando, ciò non vale per l'infanzia soltanto, ma per tutta la vita. Per cominciare, aumenta la letteratura medica sul potere curativo dell'amore. Nel suo libro intitolato Reversing Heart Disease, per esempio, il dottor Dean Ornish riporta i risultati di uno studio condotto alla Yale University School of Medicine che dimostra come più le persone si sentivano amate e sostenute e meno erano soggette a sclerosi delle coronarie. Su direttive simili, un articolo pubblicato su Science nel 1988 citava 62 studi che offrono la prova inconfutabile che le reti di supporto sociale, variamente definite vincoli coniugali, amicizie, famiglia allargata o l'essere membri di un gruppo, hanno un effetto positivo sulla convalescenza dopo un intervento chirurgico e sulle malattie croniche e infettive, mentre la mancanza di supporto sociale costituisce un pesante fattore di rischio di mortalità. Esistono anche prove scientifiche che l'impegno in comportamenti altruisti fa bene alla salute. Oggi ci stiamo finalmente risvegliando, come da un lungo sonno indotto, al fatto che per millenni abbiamo strutturato le nostre istituzioni sociali e i nostri sistemi di valori esattamente in modi che servono a bloccare, distorcere e pervertire il nostro enorme desiderio umano di connessioni amorose. Per la prima volta nella storia dell'educazione moderna, gli educatori progressisti cominciano a considerare l'educazione all'amore, o come talvolta si dice, all'alfabetismo emotivo, per aiutare gli studenti ad apprendere modi di essere e di rapportarsi, che li equipaggino per l'adattamento a una società della partnership invece che della dominanza, in modo che le prossime generazioni non debbano ricominciare dal nulla. È un compito che richiede la volontà di andare contro non soltanto l'influenza di miti e immagini vecchi di millenni, ma contro la corrente di nuovi miti e immagini della dominanza che, come cellule cancerogene, oggi spiazzano e cercano di tenere fuori dalla portata i nuovi limiti e le nuove immagini della partnership che lottano per emergere. Richiede la volontà di andare contro le istituzioni stabilite che ancora premiano comportamenti antiumani. Richiede di porre a noi stessi e agli altri interrogativi inconsueti come di chi è l'immaginazione quando abbiamo fantasie che intimamente sappiamo essere prodotti da un sistema sociale ideologico patologico. Richiede la volontà di scegliere non il conformismo, ma il dissenso, come fece la sparuta minoranza, inizialmente assai impopolare, che nella prima fase della moderna rivoluzione delle coscienze sfidò l'autorità per compiere i primi passi importanti verso un'organizzazione sociale e ideologica sul modello della partnership invece che sulla dominanza. I cambiamenti dei modi di pensare e di agire conducono a nuove storie e a nuove immagini, ma queste a loro volta facilitano la creazione di nuove forme comportamentali e istituzionali che rendono possibili ulteriori cambiamenti della consapevolezza e contemporaneamente nuovi miti e immagini nuove che allora di nuovo stimolano la nostra capacità assolutamente unica di creatività, ci ispirano a compiere altri cambiamenti in tutti gli aspetti della nostra esistenza. Ridefinire il coraggio. La questione del coraggio ci porta a un altro importante cambiamento della consapevolezza, un cambiamento che ancora una volta non si riflette nella maggior parte delle immagini e delle storie che troviamo nei filoni principali della cultura, più simili a uno specchio retrovisore che riflette il nostro passato di dominanza che a un quadro accurato di quanto sta accadendo ora. Infatti, in numero sempre maggiore, ci rendiamo conto che il vecchio modello del coraggio è di un coraggio generato dalla collera, dalla paura e dall'odio. Soprattutto ci stiamo rendendo conto che c'è un altro tipo di coraggio, fondamentalmente radicato nella cura degli altri, di coloro che amiamo, quanto di coloro che ci sono del tutto estranei, il coraggio di levarsi contro l'ingiustizia. Ci sorprenderà il fatto che la storia più famosa delle origini umane, la storia di Adamo ed Eva, riportata dal Genesi, non ha proprio niente di buono da dire sul sesso, l'amore o il piacere. Presenta la ricerca umana di una maggiore consapevolezza come una maledizione invece che una benedizione. E non sfiora nemmeno il timore reverenziale, la meraviglia che noi esseri umani sperimentiamo quando guardiamo e tocchiamo una persona amata. Allorché comunicai a David che in quest'ultimo capitolo pensavo di parlare di questo mito. Su di essa ha scritto una poesia, una delle tante che mi ha dedicato dal nostro primo incontro 18 anni fa. La poesia si intitola Il nuovo Adamo e la nuova Eva. Ho fatto un sogno terribile, disse lei. Sei al sicuro? Lui sussurrò cullandola tra le braccia. No, era terribile, non riesco più a dormire. Ancora vedo quel meraviglioso giardino, gli uccelli, i frutti, le chiare acque coi ciottoli di agata e il vagare sognante dei pesci verdi. E tu eri lì, e per un po' andò tutto bene. Ma poi quel terribile vecchio venne a dirmi che non devo pensare con la mia testa. E subito venne un serpente a dire. Lui rise. Un serpente parlante. Non ridere, ti prego, non ridere. Lei rabbrividì. Era talmente reale, più reale di adesso, molto di più. Il serpente mi offrì un cervello e una mente, e quando li ebbi presi, il vecchio arrivò di corsa, con gli occhi strabuzzati e la bocca spalancata, lanciando maledizioni con la forza di un uragano, e ci gettò fuori dal giardino. E tu te la sei presa con me. E in un mondo di avversità lottammo per la vita per 5.000 anni. Il sole toccò il davanzale della finestra. Toccò i suoi capelli. Lui toccò l'oro del suo collo e sospirando lei si rotolò e a lungo restarono abbracciati, poi lei si levò. Vieni a sedere, lo invitò gioiosa, accanto alla finestra. Si riversava dentro tutta la gloria del mattino, l'oro ramato del cielo, il lontano canto del gallo, il riso chiaro e sommesso lungo il fiume, la leggera, fresca fragranza dei campi. Sarà una buona giornata, disse lui sorridendo. E una buona nottata, disse lei. Per anni, entrambi pensarono. Per anni e anni. Fine.